vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Ciao Crucials. No, non ho detto gioia. Là ragazzi, buonasera. She was a fast machine, she kept Sera. Allora, siete due facce di merda, ovviamente. Avviso per il signor Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24. Ha dimenticato ancora una volta il suo cellulare all'interno dello studio. Il cellulare. Ci sono due chiamate senza risposta. Due chiamate senza risposta. Non posso dire chi, non posso dire chi. Gente molto in alto, però. Persone molto in alto. Persone che magari hanno scritto il viaggio in Italia. Non lo so, non posso dire nulla io. Posso dire nulla. Persone molto, molto in alto. Due chiamate senza risposta. Due chiamate senza risposta. Oltre, ovviamente, mandargli un SMS, scusami. No, ma oltre ovviamente a numerosissimi messaggi senza il nome, con scritto cara, caro, cosa stai facendo, ti sto aspettando, numerosissimi messaggi. Non è vero. Oh, io quello leggo solo la prima riga. Caro, dove sei? Però non vuol dire nulla, caro, dove sei, Solo caro dove sei ho letto. Poi due messaggi da persone molto in alto. Molto in alto. Beh, potrebbe... caro dove sei potrebbe essere Oscar Giannino magari. Sì, chiunque. Infatti, caro dove sei? Io ho detto semplicemente caro dove sei. Dunque, avviso ai naviganti. Vice direttore di Radio 24 che si chiama Sebastiano Barisoni, che avete ascoltato prima perché era in ascolto anche prima, ha dimenticato il suo cellulare, un BlackBerry, non facciamo pubblicità però ormai l'abbiamo detto, un BlackBerry inside the studio. Venga a recuperarlo. Oh, ma... altrimenti lo rivendiamo. A quanto lo rivendiamo, Parenzo? Beh, ha un valore, pieno di numeri, pieno di... Vanna Marchi come lo venderebbe? Abbiamo un cellulare del signor Barisoni a 40.000 euro, d'accordo? Ma scusa, come, perché 40.000 euro? Se non lo comprate avrete il maleficio. Beh ragazzi, allora uno dei principali quotidiani israeliani che si chiama Haaretz, uno dei principali quotidiani israeliani, mette, si chiama Haaretz, che significa la terra, è come Repubblica in Italia. Esatto, diciamo. Scrive così: davattimo violenza senza precedenti contro Israele. Le frasi shock pronunciate dal filosofo alla zanzara. Il più noto filosofo italiano, il più noto, uno dei più noti, hanno esagerato qui, vorrebbe uccidere personalmente gli israeliani e ritiene che gli europei dovrebbero raccogliere fondi per fornire altri missili ad Hamas. Poi riporta tutte le frasi, soprattutto quando Vattimo dice che Israele si comporta peggio di Hitler. Paragoni di questo tipo, scrive Haaretz, non sono insoliti in Italia, dove l'elite intellettuale è generalmente pro-palestinese. Tuttavia, un tale invito alla violenza contro gli israeliani da parte di un personaggio pubblico è quasi senza precedenti e ha suscitato forti critiche sia sulla stampa che da parte dei leader delle comunità ebraiche. Ma figurati, mi sono sono curato la morte, mi sono curato la morte del mio amico, che sia israeliano o no, non me ne importa niente. È un oppressore che sta distruggendo un popolo. Allora, se muore tanto meglio, che crepi. Ma scusi, ma lei contro i nazisti cosa avrebbe fatto? Delle prediche? Avrebbe fatto parlare Lutwak? Accidenti, questi sono nazisti puri, puri nazisti. Ricordiamo, Israele non è democrazia, è stato razzista. Israele è una democrazia, è uno stato razzista, dove c'è una minoranza perseguitata, maltrattata, tenuta senza acqua, espropriata, murata, via via, altro che stato, altro che democrazia, belli miei. Ma fatevi furbi, lo so che per carità qualcuno di voi avrà anche dei legami di parentela. Io conosco un sacco di ebrei ragionevoli che sono antisionisti, e l'unico modo di essere un ebreo serio oggi è essere antisionista. Tutto il resto è solo mitologia, è antipatia. Razzismo puro. Peggio di Hitler. Sono peggio di Hitler nel senso che oggi sono molto più attuali di Hitler. Hitler è morto e sepolto e comunque non aveva l'amicizia delle cosiddette democrazie occidentali. Non aveva neanche la buona coscienza che hanno questi qui di credere davvero di star facendo la giustizia. Noi siamo il regno del bene, mandati al diavolo. Vabbè, insomma, le frasi di Battimo pronunciate alla Zanzara arrivano anche in Israele, dove non credo che il signor Battimo sia persona grata, magari non gliene fotte assolutamente nulla di andare in Israele, non credo sia persona grata. Tu ne sai qualcosa in più, forse, caro Parenzo? Ma guarda, è una sì, reazioni indignate, è una cloaca pazzesca, ha detto delle cose vergognose. Vabbè, questo l'abbiamo detto, è persona grata o no? Non fa liste di persone gradite o sgradite, non è un paese arabo. In Siria, ad esempio, non esageriamo, certo non gli daranno il visto per andare in Israele, su questo non c'è dubbio. Dai. No, questo se ci venga pure. Vedremo. A proposito di Rom, caro Parenzo, leggo una notizia, anzi un'intervista al Messaggero di un vigile della squadra speciale di Roma, un tale che si chiama Gianfranco Crimi, che invito a chiamare qui alla Zanzara, sicuramente ci ascolta. Zingari intoccabili, nullatenenti con milioni, basi nei campi del comune, cioè nei campi attrezzati del comune di Roma che loro riescono a utilizzare e riescono ad abitare perché si dichiarano nullatenenti, ci sarebbero delle vere e proprie basi di bande che poi mandano piccoli zingari a rubare in tutta Italia. Non l'hai letta bene. Sì, perché poi mi è stata ritwittata da qualche amico che mi voleva provocare. Dietro a quello status di indigente autocertificato nero su bianco, sì. Questo lo dice un poliziotto, non è che lo dico io, spesso si nascondono anche conti correnti e proprietà, ed è proprio ad alcune di queste famiglie che fanno capo decine di baby borseggiatori in azione sulle metropolitane e nelle stazioni. A gestirle c'è una vera e propria organizzazione, quasi sempre parentale. E dov'è lo Stato? Poi parla di altre cose, ma vedremo più avanti. Allora, torniamo un attimo sulle intercettazioni, su questa telefonata registrata a Fede da parte di questo suo personal trainer che Fede ieri ha chiamato truffatore. Sentiamo un po' di frasi di Fede ieri, il modo in cui l'ha definito, ha definito questo tizio, Emilio Fede. Un messaggio, sei un topo di fogna e basta. Allora, il problema è un topo di fogna, questo è un galeotto, no, un ergastolano, un galeotto. Ma questo qui pare che era legato anche in Argos, un avanzo di galera, vero e proprio, c'è stato dentro e mi fa schifo, questo mi fa schifo perché io l'ho aiutato in tutte le maniere. Lo voglio vedere in galera. Io lo voglio vedere in galera. Perché è proprio un topo di fogna. Oh, non è escluso, perché lui pare che abbia anche collegamenti pericolosi a nord, ma non me ne frega un beneamato. Ci deve pensare. Poi a un certo punto dice di aver mandato a fare in culo i giornalisti del Fatto Quotidiano che l'avevano chiamato. No, allora io sono stato gentile con tutti e sereno. Con quello del Fatto ho tentato di spiegargli le cose con molta serenità. A un certo punto, sai qual è stata la domanda? Sì, ma dunque però con il processo adesso come si inserisce? Gli ho detto, oh, senti, sai che ti dico, ma vaffanculo, e l'ho mandato con tutto il cuore a fanculo. non l'ho trattato male, gli ho detto vai a fanculo, proprio così, basta. Però in realtà alcune cose Fede non le smentisce, le cose dette su Dell'Utri, sui conti all'estero di Dell'Utri, cioè, ma vedremo nel corso della trasmissione, cari amici. C'è una novità però clamorosa, diciamola tutta, caro Parenzo, in questi giorni, perché una rivista molto seria, molto letta nell'establishment intellettuale di questo paese ha definitivamente sdoganato una persona. Ma non è che avesse bisogno di essere sdoganata, perché non gliene frega nulla di essere sdoganata, però ci accusano anche, ci accusano spessissimo di parlare troppo di sesso, no? E figurati un po' chi va a intervistare la rivista Micromega, diretta da Flores D'Arcais, se non sbaglio, ancora, no? Sì, del sì, gruppo certo. Repubblica. Indovina un po' chi intervistano nel farlo parlare di sesso, del modo in cui il sesso influenza le giovani generazioni, signor eccetera. Siffredi. Eccolo là, Rocco, come stai? Man, hanno intervistato un esperto, anche Fede è un esperto, Ma come un esperto? Ah, siamo in due. Quindi. Da, dovevano intervistare pure Fede, dici, perché pure lui, diciamo, su un piano diverso, però è esperto. No, grande esperto, grande ma come lo sai tu, scusa, come lo sai? Ma io una sera l'ho conosciuto, è molto simpatico, e mi ha, insomma, abbiamo parlato un po'. È malato, anche lui è malato. Che è un grande esperto. È malato anche lui, ce l'ha qua anche in testa, lui. ce l'ha in testa. Ma ti rendi conto, sdoganato da Micromega, Rocco? Beh, questo ragazzi, cioè, a me fa piacere, perché io non mi sono mai indoganato in nessun posto, ho sempre fatto il mio lavoro, come tu sai, con tanta passione, umiltà e certo. Ironia, e io credo che alla fine, voglio dire, poi con tutte le controversie del caso, lo sai che ultimamente proprio oggi mi ha chiamato Amica Chips per dirmi Rocco. Chi ti ha chiamato? Amica Chips, la patatina. Ah, Amica Chips, sì, che ti ha detto Rocco, dopo tante lotte ancora oggi con questi bacchettoni hanno cercato di fermare di nuovo la pubblicità, mi hanno fatto, domani devo registrare di nuovo le voci togliendo alcune parole, perché secondo loro significa denigrare la donna. Cioè, quelli che controllano la pubblicità. Ancora. E quali sarebbero queste parole contestate? Cioè, voglio dire, croccante, stai parlando di una donna di colore, ma che state dicendo? Ma sono pazzi. Ma che cioè, cose surreali, quindi voglio dire... Beh, sdoganato pure a sinistra, ora... sdoganato a sinistra, Rocco, perché la sinistra ha sempre avuto un atteggiamento col sesso un po' così, no? Un po'... No, la verità, la sinistra è sempre stata, in prima visione, quella che sembrava la più propensa, quella che ti autorizzava... Progressista, certo. Sì, progressista. Poi in realtà sono i più bacchettoni, questo lo so in primis. Ogni volta la sinistra mi elogia, però dietro poi mi bacchetta di brutto. Però vabbè. Vabbè, che devi fare? Tu hai detto però una frase su YouPorn che mi ha colpito. Tu dici YouPorn, secondo me l'hai detta anche... Hai dichiarato su YouPorn. No, ma certo, YouPorn è una delle cose più viste nel mondo, è normale. Parenzo, ma tu pensi, in che mondo vivi? Tu hai visto qualche volta YouPorn, Parenzo? Ma certo, ma che stai scherzando? Ma non ci vai abitualmente, però. Ho fatto corsi di aggiornamento. Beh, non è diciamo la mattina in genere Repubblica. Vabbè, YouPorn non esiste più, adesso ci sono altri 8.000 tube. Esatto, ci sono 8.000 tube, non c'è dubbio. Però tu dici una cosa, tu dici ha rovinato i giovani. Adesso tu lo dici perché è un po' pro domo tua, perché ha rovinato anche voi, Cioè, diciamo la verità. No, allora ti dico la verità, te lo giuro sui miei figli. Quando parlo dei miei figli, parlo dei miei figli. Io ho sempre fatto questo lavoro con molta serietà, però mi sono reso conto oggi, ho 50 anni, anche qualche anno fa, già dalle edicole, quando mettevano le riviste con le ore, men, cazzi, fighe, lì entri in un'edicola, vuoi comprarti Topolino per tuo figlio, sei obbligato a guardare lì davanti. Io l'ho sempre ritenuto qualcosa che non è bello. Io credo alla fine che oggi, avendo questa... bella opportunità di internet di poterci documentare, farci le pizze. Però c'è un eccesso, No, non è che c'è un eccesso, non c'è più controllo, perché io mi rendo conto che sta nascendo una generazione con un insegnamento che prima non c'era, prima non si parlava di sesso perché tabù in Italia. Sì. Adesso invece sta nascendo una generazione con un'educazione pornografica totalmente. E questo fa male, tu dici, al sesso di coppia? Allora, no. Agli adolescenti fa male, perché un adolescente a 13 anni, 12 anni che vede una scena di sesso di Siffredi o chiunque altro faccia del porno a un certo livello e lo porta e poi lo replica con la fidanzatina di 13 anni, gli fa un culo come una campana e la manda in ospedale. Non è un bell'insegnamento, è quello che io cerco Bravo. Di dire. Cioè tu dici che quello che vede nel porno, quello che vede da Siffredi è un cattivo... Ragazzi, io ho delle coppiette di teenager che mi fermano in discoteca, ci sono delle ragazze, ma tutte le volte che vado nei locali mi dicono loro, le ragazze mi dicono: Rocco, ma glielo dici tu a questo qua che non serve, certo, che mi fa quello che fai tu alle ragazze, perché uno mi fa male, due non mi diverto, e tre non è quello che voglio. Cioè, ma questo è la donna. Ma addirittura tu dici proibire l'accesso ai preadolescenti. Ma facciamo una cosa, scusa. Non proibire, cercare il modo di far capire a questi ragazzi. Beh, tu dici proibire, quello però non è... Tu hai detto proibire. In un certo senso andrebbe un attimino più controllato, nel senso che, ragazzi, è arrivata l'ora, non nascondiamoci dietro delle finte barriere moralistiche, è arrivata l'ora di parlare chiaramente ai ragazzi, ai giovani, e dirgli: ragazzi, non è importante fare come fanno i pornostar, perché loro servono forse alle coppie più avanzate. Ci deve essere uno step iniziale. Ho capito, ma a Renzi che vogliamo dire? Blocchiamo... Blocchiamo internet per i ragazzi, cioè l'accesso alcuni alla pornografia sui teenager. Allora, sarebbe la cosa ideale. Il problema sotto i 14 anni, devi dargli un intermezzo, devi dargli... Ma io credo, guarda, che ci sia bisogno di Siffredi a Palazzo Chigi, cioè penso... Consulente di Renzi. Beh, sarebbe eccezionale. Un attimo solo, che c'è il traffico. Tu andresti a fare consulente di Renzi, Rocco? Sì, subito, ovviamente. Ma guarda, io tutto quello che significa poter parlare della mia esperienza ai giovani, aiutare qualcuno ai giovani, lo farei subito. Ma grazie. Vi voglio benissimo, viva la topa. Caro Ruffini, amico mio. È con noi Rocco Siffredi, definitivamente sdoganato ormai da tutto il mondo, perché dopo questa mega intervista a uno dei mensili, a una delle riviste più snob d'Italia, per parlare di sesso, adolescenti, eccetera, ormai non c'è più niente da fare. Io voglio capire, dopo aver fatto un film soft, non è che sia riuscito molto bene, dopo essere diventato ormai, anche per merito nostro, una specie di analista della situazione sociale in Italia. Analista mi piace. Ecco, ma tu che cosa vuoi fare? Come la tua vita, come può andare avanti, Rocco? Cioè, che cosa devi fare di più? Cosa vuoi fare da grande? Lo devo ancora capire, spero di non diventarlo mai grande, perché si sta bene da ragazzini che si vuole sempre imparare. Ma in futuro cosa ti piacerebbe fare? Dimmi una cosa che ti piacerebbe fare, che hai pensato e che non hai mai fatto fino adesso. Una. La prima è proprio quella di poter insegnare a chi vuol fare il mio lavoro come si fa a farlo bene. Un'accademia del porno, vuoi fare un'accademia? Questa è la cosa che mi piace di più e che sto mettendo in piedi. Cioè, in che modo? E scusa? L'altra... la sto mettendo in piedi, la scuola di porno sarà pure, questo è uno studio mio, e partiamo già dai primi di settembre con un bel campus. Bellissimo, stupendo. Come si deve. Guarda che sembra quasi, per uno che fa sesso come te, come me, c'è gente che lo fa, non mi stai accostando a un mito, io adesso sono lontano mille miglia, caro Rocco. È pieno di persone che non sanno approcciare le donne nell'intimità, ma credimi, non sanno approcciare neanche l'ABC. Non c'è dubbio. Il presuntuoso, ma lo vedo sui set, è surreale, quindi voglio dire, oltre alla scuola, ma anche la scuola di sesso per le persone normali potresti fare, anche lezioni per esempio, ai pedofili, la castrazione, che cosa faresti? Dimmi che cosa faresti, li castreresti, li condanneresti Allora, ti dico la verità, è qualcosa che è normale, fuori dal mondo è considerata una malattia, credo che lo sia per davvero, legata all'impotenza. Credo ma la castrazione chimica, come propone qualcuno, la faresti tu? Faresti obbligatoria? Che ti devo dire, in teoria e in pratica non sono uno violento, non sono per la violenza, però... che porta violenza, però sicuramente non è bello. Uno a volte, quando si ritrova in primis con un figlio che magari viene abusato o qualcosa del genere, poi magari cambia mentalità. Diciamo, e a quelli che vanno con le baby prostitute, che faresti? Quelli che vanno? Con le baby prostitute. Ma è la stessa storia, non vedo una grande differenza fra un'età che va al di sotto dei 14 anni. Adesso è vero che dai 14 ai 18 c'è una legge molto precisa e specifica. Io devo dirti però che ci sono delle 14 anni oggi che danno i punti e non per persona. Cioè tu li capisci un po'? Li capisci no, un po' quelli... ma io vedo i ragazzini in discoteca, ti parlo sempre della solita generazione nuova. Sì. Ci sono, e anche grazie probabilmente a noi, una nuova generazione purtroppo, che ha saltato, sì, purtroppo, che ha saltato, purtroppo da un lato, per fortuna dall'altro. Devo dirti che oggi è bello perché c'è una generazione senza complessi, una generazione che non ha paura e timori. Però c'è stata un'esagerazione. E c'è stata un'esagerazione, quindi bisogna prendere un po' tutte e due. Prima la mia generazione è quella dei frustrati, la gente che non sapeva parlare alle donne, le persone che avevano timore. Ancora oggi coppie coetanei miei che hanno timore di dire la propria donna troia e vorrebbero dirglielo, però non sanno dirglielo perché hanno paura della reazione. Certo. Invece questa generazione nuova è molto più aggressiva. Tu lo dici, Parenzo, lo dici, Parenzo, ogni tanto nell'intimità? No, lo dici? Una cosa. Beh, stupendo, scusa, è meraviglioso. Assolutamente no. Ma perché non lo dici? Devi sapere, Rocco, tu dovresti dare delle lezioni a Parenzo. Cominciamo con delle lezioni. Siamo all'ABC. Amico caro, mio, caro, siamo all'ABC. Ragazzi, io sono uno che utilizza tutti i sensi con le donne. Certo. Dal tatto a come le prendi, a come le tocchi, a come le odori e a quello che gli dici. Senti, Rocco, solamente saper giudicare chi è davanti. Ma non c'è dubbio, non c'è. Tutto lì. Senti un attimo, ma tu sei contento della soluzione di Silvio? Io ho fatto un tweet il giorno della soluzione di Silvio. Sì, che è stato un po' sopra le righe, diciamo. Un po' sopra le righe, ma nel mio tono, ma è stato anche molto cliccato, citato, eccetera. Hanno processato le scopate, ma se la sono presa in quel posto. Questo è hanno processato Leo, ma sei contento per la soluzione di Silvio? Sì. Ma sicuramente sì, ma è normale. Presidente, finalmente. Adesso io spero che lui mi dia retta una volta per tutta, una volta che è stato assolto, è stato provato che lui è una persona onesta e si diverte. Sì, in quel campo, sì. Che possa realmente decidere di venire a fare un film con me. Ah, adesso dici, una volta assolto da quella roba, basta, ormai si deve decidere. Direttamente. Sul professional, dove tutto è trasparente. Ma comunque guarda che Rocco, che ci sono voci di rottura tra la Pascale e Berlusconi, ieri ne abbiamo parlato, abbiamo dato la notizia qui. Grande, libero. Senti, una cosa, oggi liberoquotidiano.it lancia un sondaggio. Voi chi scegliereste tra Selvaggia Lucarelli e la Boschi? Perché Selvaggia Lucarelli ha scritto cerchi un marito alla Boschi, ti sposo io. Vabbè, un gioco della Lucarelli. Poi ha proposto un sondaggio. Voi chi scegliereste tra Selvaggia Lucarelli o la Boschi? Io guarda, a tutte e due do due ruoli completamente diversi. Cioè? Per me la Vera Maiala e la Boschi. Sì. Selvaggia è una che aggredisce molto, molto strong, però... ma secondo me poi alla fine è un agnellino. La Boschi secondo me è un grande animale. Dunque tu con la Boschi, da dove si sceglie da due con la Boschi? Probabilmente sì, sarebbe più divertente. Beh, siamo al top, Ma Travaglio lo vedresti in un film porno? Travaglio? In una versione un po' particolare però. Cioè quale? Versione un po', non proprio di quelle che faccio io, un genere un po' alternativo. Quale? Aspetta, poi me lo dice, tra un quarto d'ora, perché voglio lasciare l'attesa in genere alternativo. Pensaci un quarto d'ora, va. Ciao Crucial! Non si sente nulla, non si sente nulla delle telefonate di Fede, della telefonata di Fede Regge, telefonata, scusate, della conversazione tra questo personal trainer e Fede che sta facendo discutere, perché Fede parla della mafia, accosta il nome di Berlusconi a mafia, soldi, mafia, eccetera, eccetera, non si sa in quale contesto, eccetera. Però ve la facciamo ascoltare lo stesso, cercate di aguzzare un attimo le orecchie, rimanete con le orecchie incollate alla radio e se state guidando, Parenzo, abbandonate anche il volante, direi, no? Improvvisamente tirate il freno a mano. No, per adesso abbandonate il volante e tirate il freno a mano, manco riescono ad ascoltare perché crepano all'improvviso. Lascia un attimo 2-3 minuti di vita, no? 2-3 minuti di vita, mentre tu abbandoni, diciamo, la vista, lasci il volante, ti metti con le orecchie all'autoradio e senti questa roba di Fede. Sì, è brutto, è c'era più perché chiaramente c'era il rapporto mafia, soldi. Berlusconi però era tutto Belluti che faceva girare. Mafia, soldi, mafia, era tutto Dell'Utri, sì, era tutto Dell'Utri che gestiva, non si capisce niente, dai. C'è un'altra cosa che è uscita fuori in queste, sì, nell'audio di queste telefonate che sono state pubblicate nell'originale dal Fatto Quotidiano, anche se Fede poi dice che l'originale non è quello, vabbè, tutto un pasticcio. Ed è questa, sentite. Tu eri culo e camicia con lui, eh? Tutto. Quando scopava, si metteva un dito, quando poteva, tutto, io sapevo tutto. Risentiamo bene, io sapevo quando scopava, sapevo tutto, so tutto di Berlusconi, dice. Beh, potrebbe anche scherzare, potrebbe. Vabbè, ma anche questo, ma poi chi se ne frega di questa roba qua? Cioè, che sapesse tutto di Berlusconi non è mica un mistero, eh. Certo, c'è quella questione dei conti correnti di Dell'Utri, che ha 70 conti correnti all'estero, eh. Dice Fede. Tu eri culo e camicia con lui, eh? Tutto. Quando scopava, si metteva un dito, quando poteva. Tutto. Come godeva. Mi pare comunque chiaro il trappolone di questo, eh? Proprio il trappolone. Beh, chiarissimo. Questo mi sembra una banalità. Proprio chiarissimo. Ma non ho capito, ma tu da tutta questa vicenda la tua considerazione è che questo personal trainer ha fatto il trappolone a Fede? Cioè, arriva Parenzo a dire le stronzate. Ma io devo dire, dopo due giorni che ne parliamo, tu dici, beh, gli ha fatto il trappolone. Beh, te credo, no, che gli ha fatto il trappolone. Cioè, di quello stiamo parlando. Lì si frequentavano persone, e questa è l'unica roba che gli ho detto anche in faccia, che lo ripeto oggi. Si frequentano brutte persone, però. Questo è il fatto. Chissà perché frequentano sempre brutte persone o ricattatori. A me per ora non mi è mai capitato. Poi mi vabbè, ma quando frequenti no, tanta gente ti capita? No, quando un vabbè corno. Ma ti può capitare anche a di frequentare? Mai capitato? No, devo dire, sì, una volta, lasciamo perdere. Sì, un signore una volta. Sì, una volta che mi ha registrato una telefonata, una cosa pazzesca. Una persona molto per bene anche lì, eh. Questo non dico nulla io. Allora, scrivono su Yahoo: il mio ragazzo, 22 anni, da quando ha iniziato ad ascoltare la Zanzara su Radio 24 parla come Cruciani, dice di continuo, beh, siamo al top. No, ma questo lo dico io però. Ma di che stiamo parlando? Ti giuro, così è. Siamo al top ragazzi. Non so come fare. Si dice questa ragazza. Vabbè, titoli del TG3, dai, dopo speriamo di ricontattare Rocco Siffredi, che ci doveva fare una rivelazione sul ruolo di Marco Travaglio in un film porno. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. In furia nei combattimenti a Gaza, continuano i bombardamenti e il lancio di razzi. L'Agenzia Europea per il Volo non sicuro l'aeroporto di Tel Aviv. Sulle riforme, dice Renzi, non ci sono ostacoli o scherzetti che ci fermeranno. Vendo al ritiro degli emendamenti, possibile davanti alla buona volontà del governo. Al Senato è richiesta di voto segreto per oltre 900 emendamenti al disegno di legge sulle riforme. Grasso verrà accolta solo su funzioni, minoranze e diritti. Sarà interrogato venerdì l'ex governatore del Veneto Galan, accusato di corruzione nell'inchiesta Mose. Ieri la Camera ha votato sì all'arresto. La Confindustria, niente crescita per quest'anno, servono credito e investimenti pubblici per la ripresa. A Roma la protesta dei lavoratori dell'Alcoa di Porto Vecchio. A 30 mesi dal naufragio la Concordia ha ricominciato a navigare, trainata da due rimorchiatori, il relitto in rotta verso Genova, dove arriverà domenica. Dopo le centinaia di disdette a causa di previsioni meteo-terroristiche, in Romagna gli albergatori si sono associati per fare causa ai siti web che si occupano del tempo. Che tempi. Allora, le vacanze dell'amico dei Rom, dell'amico della sinistra, dell'uomo un po' snob, eccetera, le vacanze a Ponza di Parenzo raccontate da Barbara D'Urso, no, con cui onda, aspetta, stai tranquillo. Con cui ha passato. Ma è lei che l'ha pubblicato, mica l'ho mandato in onda io. Ah, lei sì, ha pubblicato. Beh, scusa, non mandare in onda. Che fai? Ti vergogni? Non ti puoi vergognare? No, anzi, per il... Allora, le vacanze dell'uomo della sinistra italiana. David Parenzo in yacht, in un bellissimo yacht. No, ecco, qui ti becchi l'acquarella per diffamazione a casa. In un bellissimo yacht insieme a Carmelita D'Urso, non sentite. Era yacht, era un god. No, allora, lo sapete che cosa ha scritto la signora D'Urso, giustamente, sul suo sito? Ho passato un fine settimana insieme a David Parenzo, ti giuro, eh. Io sono molto adatto, devo dirti la verità, sono molto invidioso di questa roba qua. Te lo dico sinceramente, dico con tutta sincerità. E fai molto bene. In tutta sincerità. Dove però si vede una... yacht. No, ma lasciamo perdere, uno yacht, dai, su, uno yacht, uno yacht. Le foto. Era un gozzo. Vabbè, un gozzo, sì, d'accordo. Guidato, peraltro, da un immigrato clandestino. Vabbè, clandestino sarebbe gravissimo. Comunque, sentiamo cosa dice in questa conversazione la signora D'Urso. Le vacanze di Parenzo insieme alla D'Urso, è tutto finito, lo sapete, no? Ero a Ponza d'autostrada. Tutto finito. 3, 2, 1, motore, azione, D'Urso 1. D'Urso 1, siamo sul gozzo. Sul gozzo. Siamo sul gozzo. Sì. Io e David Parenzo della Zanzara. E già questo porrà dei dubbi alle persone sane di mente che ci azzeccano. Cosa c'entrano? Era il vento che scuoteva. Allora, siamo rimasti lì con questa cosa con Rocco, eh? Siamo rimasti lì, caro Rocco. Siamo rimasti lì in attesa. Quale ruolo ti immagini per il signor Travaglio? Il re della... Uno dei re, tra l'altro, è uno che fa un sacco di ascolti, fa aumentare gli ascolti dei programmi. Quale ruolo in un film porno, secondo te? Il poeta. Come poeta? Ma lo vedo molto teorico. Cioè, uno che guarda, parla, e poi magari dice delle belle cose, finita lì. Non lo vedo uno molto attivo sull'ambito sessuale. Ah, no, cioè, secondo te non c'è acchiappa da questo punto di vista? Forse è più passivo, lo vedo che attivo. Ma più passivo che attivo, addirittura. Ma legato nell'ambito sessuale. Non te lo fare contro, se no è un casino qua. Tu lo sai che una volta che uno se lo fa contro. No, io parlo sempre per quello che sento, per l'amor di Dio. Sì, per quello che vedi. Per quello che vuole di me. Tu mi fai una domanda e io ti faccio una risposta. Certo. Tu mi dici, ma come lo immagini, Travaglio e il presidente, chi secondo te... Ma non è che ti dico il presidente per modo di dire. Come dire, capito, nero e bianco, come dire... Sì, beh, certo. Invece, certo. Scusami, il signor Sallusti, come te lo immagini, signor Sallusti? Sallusti è un bel... Sallusti invece mi piace, è molto animale, molto... No, a lui gli deve piacere molto la gnocca a Sallusti. Beh, tanto. quello infatti si vede tutto con questo capello pelato, tipo non sferato. No, Sallusti ha gli ormoni. No, lui 100%. Cioè, tu dammi un nome e io ti dico all'istante quello che sei. Subito, Santanché? Santanché è grande maiala. Dici? No, ma non sicuro. Si può dire così. Beh, ma ho capito, ma questo è il giudizio lapidario. Certo, tu mi dai un nome e io ti rispondo. Renzi? Maurizio Belpietro. No, ma che ne sa di Belpietro, Siffredi? Dai, digli i protagonisti. Aspetta. Digli, che ne so, Renzi. Ma Renzi è uno che gli piace la patata, però non è un grande maiale, sono strasicuro. Uno abbastanza tranquillo, classico. Tranquillo, classico. Grillo, Beppe Grillo. Grillo è un gran maialone, Grillo si diverte. Grillo è grande. Grillo io grande. Invece no, io ma che stai facendo? Che sentivo della sciacquettare qualcosa? Che stai a fare? No, ero io che davo da bere alle piante. Ah, tu dalle piante, tu invece io no? Io ero in strada, adesso sono in stanza. Ma la gente per strada, quando giri per strada per Roma, oggi eri a Roma, no? Giri per strada, sì. Che succede? Niente, mi salutano, mi chiedono autografi, mi sorridono. A Roma tanti oggi. sorrisi. È a Roma oggi? Sì, a Roma. Sì, ho annuncio lasciato alla la popolazione, amici mariti, chiudete le vostre donne in casa. Ma è una persona strafedele adesso, dai, su, a parte i film è strafedele alla moglie. Io l'ho incontrata una volta, una moglie pazzesca, cioè di una bellezza incredibile. Di una... Guarda, ti dico la verità, la pura verità. Se riuscissi... Il mio intento è quello di esserlo a vita, perché è l'unica, cioè, ti dico la pura verità, la sensazione, sì, voglio essere fedele, fare da grande, esatto. Da grande, riuscire a trasferire tutte le mie energie solo su di lei. E quando ti dico riuscire a fare questo, significa ancora non ce l'ho fatta. Ah, tutte le tue energie, ma cioè non fare più film? O tutte le tue energie? Non anche? Fare più niente, non toccare più nessuna donna, solo lei sarebbe il massimo. Il problema è che io non ho il controllo del mio corpo, della mia mente, come credo, cioè come cerco di lo so, credere. Lo so. Non è proprio ancora così. È un casino. Vorrei tanto avere il controllo almeno di quello. E ti dico perché mia moglie si merita molto di più di me. Lo so, hai ragione. Su questo purtroppo ci sono persone che non hanno il controllo. Tu lo capisci. Non me lo dire, guarda, non me lo dire. Ma tu hai un'ultima. Ti dico, tutto quello che sono in realtà. Grazie a tua moglie. Veramente grazie a lei. Sì. No, questo qua lo so perché poi ne abbiamo parlato. Senti, un'ultima cosa, ma i tuoi figli quanti anni hanno il più grande? 14 e 18. Ecco, se facessero il tuo mestiere, io sconsiglio, saresti contento oppure sarebbe un fallimento per te? Ma lo vedo da, no, non sarebbe un fallimento, certo, se lo facessero per passione come l'ho avuta io. Ma ti piacerebbe o no? Ti piacerebbe che facessero altro? La verità è che lavorare col proprio corpo vuol dire rinunciare a una parte della vita, del piacere della vita. Dunque no, non vuoi che i tuoi figli facciano quel tuo mestiere? No, diciamo. Ti dico, nella vita bisogna pur far qualcosa. Quando mi sono reso conto che avevo tutta questa passione, mi sono anche detto, entrando nel porno, in un mondo particolare, sì, in un mondo non sempre bello, pieno di personaggi ambigui, devo dirti che mi sono detto bisogna farlo, devo lavorare, andrò avanti, l'ho fatto. Però diciamo la verità, oggi ai tuoi figli non dire, se non lo fanno è meglio. Sì, però non una questione economica, più che altro è un mondo che non ha più senso il porno, oramai pornostar lo sono tutti a casa, chi non si filma a casa, anche i politici, anche gli artisti, cioè chiunque si diverte con la telecamera, insomma, questo è molto bello. Quindi questo ha creato un mondo di... Vabbè, i tuoi figli non sai, facessero quello che vogliono, tu dici, no? Guarda, io dico che nella vita tutti devono fare quello che vogliono, cioè, questa è la base della vita, anche i tuoi figli. Vabbè, ti abbraccio. Tutti, anche loro in primis. Ciao, ti abbraccio, Rocca, a presto. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. You got me so I can't sleep at night. Io c'ho anche perfino il cagnolino. Come avete capito, cari amici, noi preferiamo certi argomenti ogni tanto piuttosto che parlare della noiosissima riforma del Senato. Però no, questo non si può. Sì, lo posso dire, meglio Rocco Siffredi del 99% dei politici italiani, su questo non c'è dubbio, del 99%. Non si può affrontare il Senato a quest'ora. No, hai ragione, mi viene volta stomaco, però qualcosa dobbiamo dire. Siete contenti o no che si è deciso di lavorare ad oltranza fino a non so quando, all'8 agosto, dalle 9 di mattina fino alle, a che cos'era, dalle 9 alle 24? Mezzanotte. Sì, da lunedì alla domenica. Lunedì alla domenica, come dice. Fanno il loro dovere. Fine. Il signor Grasso. No, aspetta. Io vado controcorrente. Dico semplicemente per rispondere ai diktat del governo che vuole assolutissimamente chiudere la riforma. No. Questi si devono lavorare dalle 9 alle 24. Uno dice bene, così i politici lavorano. Ma è tutta una roba ridicola. Che fretta c'è? Ma non si può sempre dire così, però. Ma scusa. Non c'è nessuna fretta. Diciamo una volta che prendono una decisione, dice volete fare tutti quegli emendamenti lì, 5.000. Benissimo, allora il governo dice lavoriamo tutta l'estate. Una volta che uno fa una roba intelligente, al di là che lo fa l'NCC, il QCC, il BBD. No, ma qual è la cosa intelligente? Di lavorare a oltranza fino ad agosto? Noi vogliamo portare a casa il risultato, perché lo vogliamo portare a casa. Quindi volete fare tutti quegli emendamenti? Dite che se no il Parlamento non lavora. Benissimo, lavoriamo tutta l'estate. A me pare una cosa intelligente. Oh, senti questo qua dei 5 Stelle intanto, per l'aula di domenica. La domenica vado a messa, il sabato ebrei, il venerdì musulmano. Senti, Bignami si chiama, Bignami. Nella Costituzione è previsto il rispetto della minoranza e quindi, per quello che riguarda le espressioni di culto, no? Tutti i cattolici che la domenica mattina vanno in chiesa, quindi viene leso questo diritto che penso di avere. Quindi non lo so, almeno la domenica mattina e il sabato per gli ebrei. Poi ci sono il venerdì i musulmani. Non so, volevo fare questa proposta. Allora io dico una cosa, poi mi tocca dare ragione a Parenzo, perché di fronte a queste stupidaggini dette in aula, che la domenica c'è la messa per i cattolici, il sabato per gli ebrei, il venerdì per i musulmani, cioè davanti a questa cosa mi viene da dire tutti dentro a oltranza, tutti dentro a oltranza fino alla fine di agosto. No, ma poi nessuno gli impedisce di andare a messa la domenica mattina dalle 7 alle 8. Se ti mettono una seduta. Andreotti andava, tutte, pace l'anima sua, alle 7 di mattina, certo. A messa alle 7, alle 8 era anche già prima, al lavoro, anche prima a fare le sue lottizzazioni. Sai che dice la taverna, la nostra amica taverna numero uno? La taverna. Mantenendo gli orari proposti dal Partito Democratico, quindi cominciare alle 9.30 e terminare alle 24, sabato e domenica compresi, posticipare le riforme costituzionali al disegno di legge anticorruzione, in subordine inserire, se vogliono mantenere le riforme costituzionali per il capriccio del Premier, dalle 24 fino alla riapertura dell'Aula, le mozioni di sfiducia per i ministri Lorenzin, Guidi, Poletti e Alfano. Altra proposta, vabbè ragazzi, se non vi siete ancora annoiati, Giuliano Ferrara invece sostiene di provare godimento a pensare che Mineo... Sentite, sentite. Pare che si dovrebbe arrivare a una discussione che va avanti dalle 9 del mattino alle 24, cioè a mezzanotte, senza interruzione, senza prevedere le ferie. Ecco, visto che il giornalismo è sempre meglio che lavorare, provo un certo godimento all'idea che Minzolini, Mucchetti e Mineo debbano, da senatori eletti quali sono e da giornalisti, quindi da ex pensionati quali sono, lavorare dalle 9 alle 24 di qui a fine novembre senza interruzione e senza ferie. Auguri. Ho appena avuto una notizia, caro Parenzo, che non è quella della Pascale di Berlusconi, che pure confermo, poi non so come andrà a finire ovviamente, e che è stata ripresa da tutti. La notizia è questa, la notizia è che sembra che Abemus Papam, cioè il nuovo conduttore di Ballarò, sembra, dovrebbe essere la signora Gruber. Dietlinde, certo. In trattativa in queste ore, perché anche lei appartiene alla scuderia di Caschetto, con cui il direttore di Rai Trevianello, insomma, non è proprio in buona, no? E per cui stanno trattando. Questo non lo so. L'orientamento sembra questo. Barbara Spinelli dice che Berlusconi è peggio del Marchese de Sade, che almeno non è mai sceso in politica, un pericolo pubblico che ha degradato e in parte distrutto l'Italia. Come lotta la sua Spinelli? Alessandro Da Lucca, buonasera. Buonasera. Certo, dopo Rocco Siffredi, insomma, è un bel primato, grazie. Vuole parlare oppure vuole fare scena muta? Non ho capito. Non la sentivo più. Ma è lei che deve parlare. Interveniva a proposito della intercettazione presunta di Fede, in realtà. Cioè io non capisco come mai in questo stranissimo paese, se si intercetta, se si ascolta l'intercettazione di un Emilio Fede, con tutto il rispetto, succede il pandemonio, sia che abbia detto queste cose in maniera così amichevole con una persona che conosceva, sia che l'abbia detta perché era a conoscenza di certi fatti o meno. Strano che verità processuali ormai acclarate, che hanno portato già in giudicato, in galera, eccetera, facciano meno scalpore. Cioè, di che stiamo parlando? Dal 2001 uno allora sconosciuto Marco Travaglio va da Luttazzi e dice determinate cose che erano state già pubblicate. Vabbè, insomma, lei che cosa vuole? Non ho capito che cosa vuole dire con questa cosa, Alessandro. Ma non ho capito benissimo questo paese in cui... Che già sapevamo alcune, tanto, già sapevamo alcune cose. Come, mi scusi? Già sapevamo alcune cose, non ce lo doveva dire Fede in questa telefonata. No, con... il problema non è, cioè, trasecoliamo perché sono state dette da... Ma chi è che trasecola? Chi trasecola? Beh, trasecola se ne è parlato tanto, di come se fosse lo stesso dottor Fede. Se ne è parlato, poi... ma è da ieri che se ne parla, È da ieri che si parla di questa telefonata rubata, registrata da questo personal trainer a Fede con delle frasi sulla mafia, Berlusconi... è roba vecchia. Ma non so se sia vecchio o no, ma no, tutto è vecchio e tutto è nuovo. Che vuol dire? È nuovo perché non si sapeva di questa telefonata registrata, in questo senso è nuova. Non riesco a capire. Lei dice già si sa. Ma il contenuto, ripeto, cioè si fa una polemica. Vabbè, lei non si stupisce, noi ci stupiamo no. di questa telefonata. Lei dice che si sapeva già che Dell'Utri è mafioso, Berlusconi pure. Ha parlato processualmente. Benissimo. Non è che, vabbè, ma non basta solo questo. Ormai, no? Qua, ho capito, ma quando arriva una roba nuova, cioè una telefonata registrata nuova, se ne si parla di questa telefonata. Fede, no, che smentisce. Non è neanche una telefonata. Sì, una telefonata. Insomma, una è un po' diverso l'intervento. Sì, sì, ma ho capito, ho sbagliato. Non è una telefonata, è la registrazione di una conversazione. Cioè, allora, l'ho spiegata male. Capito? No, vabbè, adesso. Vabbè, ho capito. Claudio da Roma. Bene, Claudio. Allora, eccomi qua, ci sono. Dimmi, dai. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Allora, io volevo intervenire sulle parole di Vattimo, avete aperto con le parole sì, di Vattimo. Sì, perché sono state riprese da un giornale israeliano, eccetera, eccetera, vai. Sì, però l'avete abbastanza sfottuto, insomma, mi sembra come... Io non l'ho sfottuto, siamo contrari a quello che ha detto, lo sfottimento è un'altra cosa. Siamo io e Parenzo di più, io più o meno uguale, siamo nettamente sulla barricata opposta a quella di Vattimo, ok? È chiaro? E allora riprendo le parole di Vattimo, ma dico che quando lui definisce nazisti, ed è un termine pesantissimo, sì. Mi dispiace che gli israeliani possano essere definiti nazisti, e non è tanto campato per aria, perché se andiamo ad analizzare tutto quello che è successo, è partito da 3 ragazzi israeliani trucidati da estremisti palestinesi, dopodiché sono seguite rappresaglie da parte israeliana. Dunque, secondo lei gli israeliani sono? Secondo lei sono gli israeliani? Secondo lei che cosa sono gli israeliani? Stanno comportando, si stanno dimostrando peggio dei nazisti. Peggio dei nazisti, bravo. Lei dovrebbe andare in cura da qualcuno, lo sa? No, e in cura da qualcuno ci andate voi. No, ci va lei in cura da qualcuno. Tre ragazzi palestinesi. Lei ha definito gli israeliani peggio dei nazisti. E secondo me lei. Ma ho capito benissimo. Ma se. Parenzo se ne vada tranquillamente in giro mentre i suoi amici israeliani stanno bombardando. Ma che deve fare, scusa? Che deve fare? Di Gaza, che deve fare? Io nei confronti dei miei amici ebrei ho 2 sentimenti. Uno di rabbia nei confronti di amici ebrei che giustificano un tale massacro che sta avvenendo nel silenzio generale. Nessuno giustifica niente. E con compassione confronti dei miei amici ebrei che soffrono per questo. Perché una al di là dei suoi sentimenti di cui non ce ne fotte nulla. Perché io non posso più sentire 2 persone, lei che sembra un coatto e quell'altro di Parenzo radical chic che se ne va in giro a Ponza a bere a destra e a sinistra, ma che c'entra? Bambini, famiglie vengono massacrate. Ma di che allora l'amico di Roma, io voglio fare anche un altro esempio. Allora mettiamo cosa c'entra quello che succede a Gaza con quello che fa Parenzo nella vita, scusi, mi spieghi? Perché non posso sopportare che avvenga un massacro davanti a tutti quanti e venga giustificato e non ci si renda conto che nella reazione israeliana è propositata. I razzi lanciati da Hamas nei confronti degli israeliani è una reazione a uno stato di prigionia ai quali... Lei ha detto che sono peggio dei nazisti, lei ha detto che sono peggio dei nazisti. E lei deve andarsi a fare curare, a fare curare, capito? Il coatto è lei, la coattaggine non è il linguaggio, è quello che si pensa. La coattaggine è quello che si pensa. Lei è uno super coatto da questo punto di vista, capito? Lei è un super coatto. Tutti quanti, tant'è che da tempo che provavo a chiamare, ma lei può provare a chiamare tranquillamente. Di un pomeriggio per poter chiamare, perché neanche lo meritate. Sì. Cioè, quel Parenzo che se ne va in giro, con una tale ragionezza di fronte a un massacro che sta avvenendo e va in ma che deve fare? Si deve mettere sotto una pietra? Che deve fare? Sotto una buca? Che deve fare? Beh, ho detto, io farei un mea culpa, vai a pregare Parenzo, vai a pregare. Ma mea culpa di che cosa devo fare? Io ho detto, ho espresso il mio parere perché ho un sacco di parenti di persone che vivono lì e conosco benissimo la situazione. Come rispondo in maniera normale a questo qua? Ma non andare nel merito perché non vale la pena. Ti ha definito nazista, peggio dei nazisti, ha definito Israele peggio dei nazisti e ancora cerchi di spiegare quello che è successo. Ma di che parliamo? Ma è un povero pazzo, ma di che cosa vuoi che gli dica? Che è un povero pazzo e questo è. Lei si sente pazzo, Claudio? Io da italiano, se sapessi che il mio paese va a bombardare un campo rom perché uno zingaro rom ubriaco finisce contro la pensilina dell'autobus, io qualche pensilino me lo farei, non andare a Ponza, andrei a dimostrare sotto il consolato italiano, da italiano. E ma che razza di paragone è? Perché non parte... è tollerabile una cosa del genere. No, la risposta israeliana è spropositata, è indecente, è scandalosa, è degna dei peggiori nazisti, quelli di via Rasella. Vabbè, pronto? Ma lei, cioè i nazi israeliani come via Rasella, vabbè, ma lei, una bella cura di quelle proprio... Ma neanche, va visitato, internato, ma dice delle robe pazzesche, ma è una roba inaccettabile, veramente, comunque. C'è un odio incredibile proprio. Claudio, allora? E mi internate a Gaza. Allora, mi internate a Gaza. Pensateci alla reazione, tre israeliani, poveri israeliani, generano... più di 600 morti, chissà quanti ne saranno. Vabbè, lasciamo perdere, tanto è inutile. Lo hai, Bologna, Claudio, vatti a curare, vai. Lo hai, Bologna. Sì, buonasera. Dimmi. Allora, io vorrei parlare con Parenzo un attimo. Io sono un arabo israeliano. Ma Parenzo è qui. Ecco. Vorrei parlare con Parenzo, non c'è bisogno di dirlo. È qui Parenzo, non si preoccupi, non scappa. Per farlo sentire, vabbè, comunque. Prima dicevate, Israele non ha liste di persone sgradite. Prima bugia. Lui ha detto, io non ci credo, secondo me ce l'ha, come se non ce l'ha? E ce ne sono tantissime. E fa bene perché per lui ha detto, Israele non ha liste di persone sgradite e quelli sono i paesi arabi, non è così. Ho detto che vengono, quelli sgraditi sono quelli sulla lista dei terroristi. Vabbè, allora? Poi due, nessuno ha detto gli israeliani sono nazisti. Ma come no, quello di prima, Vattimo, eccetera, un sacco di gente. Ma un sacco di gente lo dice, su. Il governo. Ma certo che non lo dicono i governi, no? A parte che l'hanno detto, mi devo. Posso darvi non ho esempi? Capito, scusi, usa mezzi nazisti? Ma certo. Scusi, ma qualsiasi paragone con una cosa del genere è ridicolo, lei si rende conto allora, o no? Ma posso dire una cosa? E mi dica una cosa, caro arabo israeliano. Allora, una deputata del governo israeliano che dice: ammazziamo le donne palestinesi così non fanno. Vabbè, figli. È un caso isolato. No, allora. E un altro. Parenzo, sei d'accordo con questo? Sei d'accordo con quel deputato israeliano o deputato, non mi ricordo se è una uomo o una donna, che ha detto che bisogna ammazzare le donne palestinesi perché non nascono terroristi? Assolutamente no. Le ha detto che non è d'accordo, è contento? Infatti è stata anche richiamata, guarda che è stata anche richiamata. Boicottiamo i negozi che scioperano in solidarietà con i palestinesi di Gaza. Chi le faceva sta propaganda? Vabbè, ma quella è una roba, un'altra cosa, dai. Come un'altra cosa? Vabbè, ma lo sciopero, le solidarietà, questa cosa qui non contano nulla, dai. Vabbè, ma poi, allora, quando in Germania scioperavano gli ebrei e i ministri nazisti facevano... Ma era un'altra epoca, era il nazismo, c'erano i campi di concentramento, c'era la Shoah, ma lei è pazzo! Ma quali metodi? Ma la faccia finita con queste puttanate, pubblicità. Ma è una puttanata, si vergogni! Si vergogni di questo paragone con i nazisti, si vergogni! Ma lei si vergogni, scusa. Si deve vergognare lei, si deve vergognare di questo paragone con i nazisti, si vergogni! Ma Parenzo sta zitto! Ma io, sta zitto! Perché sono troppo coinvolto in questa cosa e siccome queste cose le cioè tu che diciamo non sei coinvolto perché non hai né parenti né niente, qualunque cosa io dica viene poi interpretata come ah, quello lì dice così perché è ebreo. Beh, allora questo... nasconditi dietro questa cosa, allora nasconditi. Io no, ho detto fino ad oggi tutto quello che pensavo. Dopodiché, siccome mi accusano di essere emotivamente coinvolto, mi sono arrivata una granola. Vabbè, di allora stai zitto, dai. Che tempi. Ormai è tutto degradato. A proposito, in queste no, sbaglio ogni volta, poi mi corregge Parenzo, intercettazioni, in questa telefonata registrata, questa sua conversazione rubata, carpita, rubata da questo personal trainer, c'è scritto Fede direbbe pure che il Briatore era impelagato in una storia di mafia o cose di questo tipo e anche che la Santanchè è una delinquente. Vabbè, chiederemo. Ma abbiamo con noi uno dei più grandi dietrologi che c'è in Italia, uno dei più grandi complottisti che esiste in Italia, caro Parenzo. Molto bene, uno dei più grandi complottisti che c'è in Italia. L'avvocato Alfonso Luigi Marra, ex fidanzato della signora Tommasi. Buonasera. Buonasera a tutti. Come sta, avvocato? Bene, ma io non sono un complottista, io sono un anticomplottista. Ma come anticomplottista? Avvocato Marra, su, ma lei è il re dei complottisti. Nel senso che accuso altri di complottismo. Vabbè, no? Sì, ho capito, però lei immagina sempre che dietro le vicende mondiali, dietro le vicende italiane, ci sia sicuramente una cupola dietro che manovra tutto, no? O sbaglio? certo, caro Cruciani. Beh, certo. Ma come ma... certo? Parenzo, me l'ho dimenticato di Parenzo. Ah, dica di Parenzo, qualcosa. Siamo su posizioni abbastanza distanti, ma diciamo che è un po' il gioco delle parti. Mi stupisce che Parenzo poi... qual è sta parte di Parenzo? In ogni modo, a proposito di gioco delle parti e sì. di complottismi, sì. io ho pubblicato oggi un articolo sulla Corte sì. Europea. Sì, la Corte ecco. Europea, sì, la Corte Europea, di cui non frega, non frega nulla a nessuno, lei lo sa, della Corte Europea. Se lei gira per strada tra i tassisti, i camionisti, la gente comune... Neanche a quelli che ne fanno parte. Ma non sanno nulla. Della Corte Europea. Non lo sanno... so, però, caro Cruciani, il problema è che la Corte Europea è il vertice della gendarmeria, in pratica. Ah, perché... il vertice, scusi un attimo, il vertice della gendarmeria, che vuol dire? Della gendarmeria, perché la Corte Europea fa delle sentenze sì. che prevalgono addirittura sulla nostra Costituzione. Vabbè, è normale, l'abbiamo deciso noi, in alcuni casi è così. E io dico che il grosso dei giudici e dei cancellieri della Corte Europea sì. devono essere arrestati per corruzione. Arrestati per corruzione. Cioè, lei dice che questa sì, Corte Europea che si trova, credo, a Strasburgo, dove si trova? Sì, si trova a Strasburgo. A Strasburgo vanno arrestati. Vanno sì. arrestati. Sì, perché sono dediti... A che cosa? Alla corruzione, alla corruzione giudiziaria. Cioè, alla corruzione. Per quale motivo al mondo? In estrema sintesi, avvocato Marco. Perché attraverso dei terminali dei governi, dei terminali. Le cancellerie, sì, eccetera, che fanno? Questi concordano le sentenze. Concordano le sentenze. Concordano i tempi di cui devono far durare i processi. Insomma, fanno un po' quello che fa anche la magistratura italiana, no? Sì. Solo che però lo fanno in grande stile, perché poi orientano le magistrature di 47 paesi. Sì, e per lei, per questa cosa qui, vanno arrestati. Certo, sono reati. Però se ora ci stiamo dando del lei, improvvisamente. No, diamoci del tuo, avvocato. Ma scusi, e questa volevo segnalata... Volevo dirti, a proposito delle cose di cui poi Parenzo... Ti ricordi la vicenda di Sara, della giudiziaria? Sì, quella della Tommasi, che com'è finita? Sai che cosa è venuto ora fuori? Che è venuto fuori? Sono cose che io dicevo da due anni. Che è venuto fuori? Se lo dico io che è venuto fuori. È venuto fuori che al processo di Salerno, venerdì scorso, sì. i periti hanno depositato una perizia in cui hanno detto sì. che non in relazione al secondo film, che non ci interessa più, sì. lì tutto è deciso, sì. ma a quella famosa intervista delle Iene e quindi al primo porno, sì. Sara non era in condizione di intendere di volere e allora? Il tuoculi. Questo sa che cosa significa? Che vuol dire? Significa che Sky, YouPorn, eccetera, hanno commesso il reato di ricettazione. Sì, ah, tutti quelli che hanno Sky che c'entra, scusi Sky. È perché Sky vendeva il film, quindi vendeva. Ma no, non credo che Sky vendeva. Non credo che Sky vendeva il film della Tommasi. Ma era scaricabile da Sky. Ma no, ma non era scaricabile da Sky. Dio mio. Cioè, nei film lì, io manco, insomma, non sono molto esperto di questi fatti televisivi, ora approfondirò per vedere chi approfondisca, certo. approfondisca. Ma lei è ancora fidanzato con la signora Tommasi? Sostanzialmente questi qui hanno ricavato dei profitti dal corpo del reato, cioè il video. Vabbè, vedremo. E ora faremo una causa in cui andremo a chiedere la restituzione dei proventi. Ma lei è esperto di case, però mi ha detto un uccellino che in questo momento lei sta messo un po' male, avvocato Marra, ha perso un po' di quattrini recentemente, o no? Mi hanno rubato, diciamo, tra la Corte Europea e la giustizia ecco italiana, perché ce l'ha. Una cinquantina di milioni. Ecco perché lei ce l'ha con la Corte Europea. Certo. Sono finiti i soldi, ha dovuto lasciare pure quella lussuosissima casa di Roma, mi hanno detto, la lussuosissima casa di Roma. No, ma non è per quella lussuosissima casa di Roma, l'ho lasciato. Io ho una lussuosissima casa anche a Napoli. Sì, ma è vicina al centro direzionale, c'è il piano dei mignotte là sotto di gay. Davvero? E così mi dicono. Così mi... No, in ogni modo, come dire, al di là degli scherzi, finalmente... finalmente scusi, quella casa a Roma, quanto la pagava lei, avvocato Marra? Io pagavo 10.000 euro al mese. 10.000 euro al mese d'affitto, a me mi hanno detto 18, ma comunque. Al tempo me l'ha comprata, scusi. E infatti, perché non se l'è comprata? Per carità. Perché non era una casa che mi interessava, nel senso che ero orientata ad abitare al centro e lì sto cercando una casa. Sta cercando? In realtà? Sì, in realtà? in realtà il motivo per il quale me ne sono andato è anche questo, che voglio abitare al centro e non all'euro. Per carità. Scusi un attimo, poco domanda, ma chi è in Italia quelli che appartengono al Bilderberg, il famoso Bilderberg? Ma tutti. Cioè, chi? Come tutti, avvocato, ma io per esempio non appartengo al Bilderberg. Diciamo che ci sono gli appartenenti formali, che sono Monti, Tremonti, eccetera, eccetera. Dopodiché l'Italia è un paese in cui esiste il 416 bis. No, no? Vabbè, non andiamo nel cose. No, aspetta, cruciale, un attimo solo. L'Italia è un paese nel quale se guardi con troppa intensità un mafioso, sì, ti accusano di concorso esterno. Sì. Va bene? Sì. Ora io dico, se Monti è un bilderberghino, insomma, conclamato, lo so. Conclamato, beh, certo, sì. Sì, certo, lui è membro, si sa. Membro. Nel momento in cui Napolitano ne fa il Presidente del Consiglio, c'entra qualche cosa o no di fatto pure lui con il Bilderberg? Chi? Cioè, chi? Se questa attività fosse per caso illecita, come io sostengo, no? Sì. Ci sarebbe l'associazione nel delinquere anche degli altri che stanno lì pure loro. Stasera hai aperto la trasmissione con Ferrara, stavate eiaculando tutte e due. Voglio sempre ricordare, caro Parenzo, ma davvero, chissà se Fede ha sbroccato... No, scusami, volevo capire una cosa prima del professor, sì, Marla, visto che è un avvocato, un uomo di legge, ma per chi spara cazzate come lei, che bene ci dovrebbero essere, scusi, dal punto di vista proprio tecnico? Così. Senti, Cruciani, ma a parte il fatto che sicuramente tu non sei stato educato né a Oxford... No, questo è Parenzo, Parenzo, quindi voglio dire... Sì. E né in nessun altro luogo dove tengano granché da conto le... Io ho fatto Galatea. Le scuole alte, caro Marra, però il Galateo importa, sicuramente non dove insegnano il Galateo, comunque. No, a parte ciò, fatto, no, vai avanti. Io faccio l'avvocato cassazionista costituzionalista da 41 anni. E vabbè, questo che c'entra? Parenzo dice... No, aspetta. Parenzo dice che dici stronzate. Avendo poi risultati ogni volta, cioè sostanzialmente le cose che io ho detto sono accadute tutte. Vorrei sapere dall'alto di quale scienza tu ti permetti di commentare. Scusi, professore, se lei esordisce in questo... Ma chi sei tu per poter parlare con un cassazionista di 41 anni di professione con questi toni? Ma chi sei? Parla, insomma, diversamente, perché non mi atteggio io, dove atteggiare tu. Ma se lei esordisce... Se lei a prescindere comunque da queste cose. Aspetti, avvocato, ma lasci parlare Parenzo un attimo. Lei... Scusi, professore, io non ho oggi nessun preconcetto, siamo a luglio, è quasi tutto finito, sono molto stanco. Lei apre la trasmissione dicendo due cose, cioè io mi stavo saltando sulla sedia. Vuole denunziare lì la Corte Europea perché dice che andrebbero arrestati tutti. Vabbè, uno può dire un colpo di sole, no, non importa, forse avrà le sue motivazioni, allora stai ad ascoltare il colpo di sole, vabbè, non importa, e avrà ragione. Poi fa i nomi del Bilderberg e questi qui, anche questi, compla. Poi dice che non ci sono soltanto quelli del Bilderberg, ma ci sono anche tutti gli amici del Bilderberg, Cruciani, io, ma sì, anche tu vedrai, adesso dirà che anch'io sono del Bilderberg, vedrai, certo, voglio tutti i nomi. Allora io mi chiedevo se c'è una norma di legge, una piccola norma di legge, lo chiedo all'uomo di diritto, per incriminare bonariamente, ovviamente, che nessuno la vuole vedere in galera, anzi, è una persona molto simpatica. Perché dice delle cazzate? Per cazzate, vuoi incriminare Marra per cazzate? Risposta, ma no, di Marra. Le cazzate, quando configurano la diffamazione, sono perseguite. Ora, io ho avuto una sola denuncia per calunnia da tre pubblici ministeri nei confronti dei quali avevo pubblicato un documento. Qui si hanno fatto 20 anni di cause e le hanno perse. Quindi se dicessi tutte queste cazzate, credo che avrei vari processi, le hanno tutte. No, ma è che la gente non ha tempo. Quindi voglio dire, cerca di fare un po' le differenze, hai capito? Però scusa, avvocato, allora qualche giorno fa siamo arrivati all'assurdo che una deputata dei 5 Stelle insieme ad altri deputati dei 5 Stelle hanno presentato una denuncia formale insieme a un sedicente comitato del popolo sovrano, un'assurda denuncia denuncia protocollata, un deputato della Repubblica che perde tempo, a presentare denunzie, come direbbe Taormina, denuncia alla Procura della Repubblica, che recita in questo modo. Anzi, la stessa deputata ha scritto: lunedì 14 luglio sono stata presso la Procura di Roma col Comitato Popolo Sovrano per presentare la denuncia a carico dei presunti, lo dice pure lei, presunti cospiratori appartenenti al gruppo Bilderberg, tra cui Monti, Draghi, Van Rompuy, Barroso e Co, per la presunta, sempre presunta, violazione della legge Anselmi sull'associazionismo. Portavo l'articolo 1. Sì, vabbè, ma io dico, ma le pare normale? Allora, Cruciani, questa denuncia l'ho presentata io, ovviamente, come è noto, per pure. Primo. È stata poi archiviata, l'ho ripresentata, ma te credo. Perché il pubblico ministero l'ha archiviata. Dai, su. L'ha archiviata dicendo che si tratta di meri sospetti. Ma te credo che sono meri sospetti? No, no, un momento, aspetta. Non ha detto che non sono reato, ha detto che sono meri sospetti. E beh, che grazie. Perché io l'ho ripresentata. Quando sono andata a ripresentarla a Roma, sono andata a conferire con Pignatone. Pure. Sì, allora? E io ho detto eccellenza, dico, io solleciterei che questa indagine si aprisse, dico, perché qui ora... Se no arriviamo al punto che tra poco fuori viene la rivolta contro il Bilderberg e gli unici a non sapere niente siete voi magistrati. Ma scusa, ma lei pensa davvero che la gente ha tempo da perdere e fare la rivolta contro il Bilderberg? Ma davvero lei pensa questo? Crucia, attenta a quello che dici, perché la gente sta col sangue agli occhi ed è molto più informata di quello che pensate voi. Il Bilderberg, ma che per esempio tra i giornalisti chi è del Bilderberg, a parte quelli guarda, che si sa? A me mi è capitato un episodio, ora te lo racconto. Che ti è capitato, dimmi. E fra l'altro stavo con Sara, stavo a Siena, a Piazza del Campo. Sì, dimmi. Stavamo seduti al bar lì, uno di quei bar, a due metri di distanza da me, a un metro, c'erano due persone, non due, che ne so, giuristi, no, due cittadini, due così, cittadini. Codice Namarra, dopo il codice che parlavano codice tra di loro, esattamente con un tono di questi argomenti che mi ha stupito moltissimo, cioè? Perché mi ha fatto capire che questi sono diventati argomenti ormai... come dire, popolari. Sì, popolari. Cioè a dire, dai, la gente sta stando zitta, sa perché? Perché si illude ancora che il potere finanziario risolve scusi, i problemi. Scusi, professore, mi scusi. Scusa, quella che tanto... Parenzo, fai parlare Parenzo. Scusami, dammi a sentire un attimo, Parenzo, aspetta un attimo. Fallo replicare un attimo. La gente non è affatto ingenua. Vabbè, ma la dai Bilderberg, professore, scusa, professore. Aspetta, scusami. Dai Bilderberg, su. Ma sono tutte cazzate. No, Bilderberg. Scusami, Cruciani, ma perché parli del Bilderberg con questo tono? Ma come? Cioè, che cos'è che ti fa pensare che questa cosa sia una barzelletta quando invece tutti gli indicatori dicono altro? Ma per esempio in Italia chi sono come dire, i burattinai, quelli che sono comandati dal Bilderberg, chi sono? Napolitano c'è? Ma innanzitutto Renzi è un massone di 33° grado investito con la spada. Ma dai su, Parenzo, ma queste sono cose che non cane avanti, poi dico dopo in fondo, fallo dire. Cioè voglio dire, poi chi c'è? Renzi in primo, dire, Renzi in primis. Italia ormai, ma mica solo in Italia, perché Bilderberghino Obama è Bilderberghino Barroso è Bilderberghino il nuovo commissario europeo, come si chiama, il nuovo chi? Sono Bilderberghini tutti al nuovo presidente della Commissione Europea. Allora, questo è o è una coincidenza sono tutti Bilderberghini e che vuoi da me? È mica colpa mia. Ma dai, cioè, voglio dire, sono tutti quanti membri del circolo occulto Bilderberg, quelli che sono ai vertici delle massime posizioni, i capi di Stato, Hollande Bilderberg, ce lo sono tutti. Vabbè, alcuni commento finale di Commento finale di Parenzo. Adesso veramente vado ai matti, perdonami. Occulto un cazzo, perché ogni volta che si riuniscono un gruppo di rompiballe si fanno lì fuori con dei cartelli dicendo fatti centrare, quindi non è occulto proprio niente. Ma no, non è occulto niente. Ma Parenzo che cos'è? Bilderberghino pure lui? Parenzo che cos'è? Ma guarda, Parenzo è un uomo di sistema, cioè non è che voi potete stare lì e dire che non siete, perché siete un uomo di sistema. Cioè, voi certi discorsi miei non li potete fare, perché sennò poi va a finire che la danno a me l'incarico di stare alla zanzara, quindi dovete dire altre cose, vi capisco. Sai che cosa ho detto a mio nipote che è avvocato e che si doleva giorni fa del fatto che ho detto bada che tu non te la devi prendere con i nemici. E con chi? No? perché i nemici giustamente sono nemici. Ecco, lo scontro che io ho con la Corte Europea riguarda migliaia di mie cause che se passano cambia la Corte Europea, il corso degli eventi. Fa il bidet dei suoi ricorsi. Fa il un momento, aspetta, parenti. Dice che fa il bidet dei tuoi ricorsi la Corte Europea. Oh, sì, sì, un cazzo, scusami. No, è vero, vendevano, io sono vendevano... un avvocato che le cause le ha sempre vinte, quindi tu parli proprio a schiovere, si dice a Napoli. A si dice a Napoli. Senta, sì. Ma lei che pensa? Adesso lasciamo perdere il Bilderberg. Una cosa finale, Marra, lei pensa che gli israeliani sono come i nazisti? Si comportano come i nazisti? Io penso che questo lo direi al Papa. Guarda. Al Papa, sì, al Papa. Sì, certo. Ti spiego perché. Perché il Papa invoca sempre la pace. E vabbè, questo. Secondo me c'è un errore, perché prima di invocare la pace bisogna cominciare a chiedere quali sono le ragioni dell'odio. Vabbè, quello in generale. Perché ma se la gente si odia, l'ho fatto una domanda, le ho fatto una domanda molto semplice. Secondo lei? Io credo che i nazisti, che i. Gli israeliani? Che gli israeliani siano i fondatori della democrazia nel XIV secolo, allora? Dopo Cristo. Dopodiché ora hanno messo un piede in fallo, perché mo questi arabi o li ammazzano tutti, sì, oppure cominciano a chiedersi un pochino come venire fuori da questo problema. Vabbè, quello mi sembra che siamo. Perché mo ne hanno ammazzati 600, sì, però si sono dimenticati che la cultura israelitica nasce su una invenzione meravigliosa, che è cioè quella di perdersi in quanto singoli pur di salvarsi in quanto collettività. E vabbè, e qui andiamo sui massimi sistemi. Questo uomo, perché io sono ateo, trasforma addirittura in ideologia del martirio. Vabbè. Quindi loro più ne ammazzano e più quelli vincono. Allora a questo punto o li ammazzano tutti e dopodiché ad onda delle reazioni internazionali si mettono al loro posto nei territori e stanno, oppure a questo punto accettano che non li possono ammazzare tutti. Lucia, attenta a quello che dici, perché la gente sta col sangue agli occhi ed è molto più informata di quello che pensate voi. Mirko da Monza, buonasera, dica. Senta, io volevo intervenire su questa diatriba tra i palestinesi e, sì, dica, e dica gli pure, israeliani. Dica pure. Niente, io volevo dire diatriba, che per me ci stanno i morti, sì. Diatriba, lei la chiama diatriba. La diatriba. Guardi, vabbè, lasciamo perdere. Sì, vabbè, Parenzo è meglio che lasci perdere. Ma che c'entra Parenzo? Adesso sto parlando io. È una cosa pazzesca. Alla fine della fiera gli ebrei sono un po' come gli zingari. L'Inghilterra. Eccola, eccone un altro, Eccone un altro. Gli ebrei sono come gli zingari, eccone un altro. Ecco un altro matto, evviva! Logisticamente sono come gli zingari. In che senso, scusa? Logisticamente. In che senso? Stanno nei territori di mezzo. E allora? L'Inghilterra a suo tempo era meglio che si teneva in Galles piuttosto che mandarli là. Comunque sia. L'Inghilterra a suo tempo è meglio che si riteneva in Galles. Scusi, siamo un po' ignoranti noi, può spiegare per questa sua frase? Ecco, purtroppo su questa cosa qui dell'ignoranza, sì. Infatti io l'avevo anticipato prima alla ragazza. Alla ragazza del centralino, sì. Io temo che lei stia parlando della dichiarazione Balfour, cosa di cui lei purtroppo non sa niente. Ha messo insieme una serie di cose che ha origliato e adesso si accinge a dire l'ennesima stronzata. Vabbè, ma lasciamolo parlare, signor Mirko, dai. Ok? Perché un giornalista che telefona, a parte che è l'unico ebreo morto di fame che c'ha un telefono a 30 euro, parla dal cesso di casa sua e pretende anche di venire a fare lezioni. Eccone. Questo è meglio, parli con i formaggiari e faccia altro. Perché anche lui, come gli ebrei, essendo ebreo, è uno zingaro, dove è, dove è messo, dove va, va e dove va prende. Punto. Com'è, scusi, non ho capito bene la metafora. Essendo ebreo, dunque, come gli zingari, perché è praticamente senza patria, no? Com'è la storia? Perfetto. È un nomade senza patria. Perfetto. E poi dovrebbe, siccome lei ha lo stereotipo perfetto, ebreo uguale ricco, allora dovrebbe possedere un telefono magari da 1500 euro, giusto? O magari presentarsi al lavoro, ma evidentemente lui non ha bisogno e gli è sufficiente telefonare seduto sul cesso. Quella, di quella è una roba di merda che non si capisce mai un cazzo, e poi viene anche a fare le critiche dicendo che le persone sono ignoranti, ma lasci perdere Parenzo, caro Mirko, per favore. Caro Mirko, allora quelli sono problemi che ci sono tra me e Parenzo di comunicazione eccetera eccetera, qualche volta no, si sente male col fatto che lui è ebreo macchina, col fatto non ho capito, non scusi, è una cosa tra voi due, io sono un vostro ascoltatore, certo. Quando uno parla da un cesso e non si capisce un cazzo è meglio che lascia perdere. Lei meriterebbe veramente che io parlassi solo da un cesso come livello di conversazione? Sì, ma da dentro, non da seduto. certo, va dentro. Però noi rispettiamo l'ascoltatore. Dentro, certo, noi rispettiamo l'ascoltatore che dice che vuole una migliore comunicazione. Vuole una migliore comunicazione. E questo qua siamo d'accordo, al di là dei termini e delle parole, caro Mirko. Però la cosa che lei ha detto è il paragone tra gli ebrei e gli zingari. Sì, perfetto. Gli zingari. In che ma senso? Non di razza, proprio di logistica. Di logistica. Sono lei come dice. Gli zingari. Sì, ma veramente c'è un paese che accaparrano tutto quello che trovano e dove li metti lì si adattano. Ah, accaparrano tutto quello che trovano. Li conquistano. Questo è. Sì, come... e nessuno lo può negare. Sì, vabbè. Nessuno lo può negare. No, ah, lo vuoi negare tu con la tua Ma io sono brutto deficiente che non sei altro. Io sono italiano, molto più di te. Da generazioni. Ma che cazzo c'entra? Ma cosa c'entra? Di che cosa stai parlando? Sono stati perseguiti anche gli italiani, non è che mi viene a dire sei italiano o non sei, ma cosa cazzo c'entra? Se tu ti fai di cose pericolose e non reggi l'impatto della droga sul tuo corpo, non telefonare, no? Sì, cambia il discorso, dai. Va bene, ma cosa cambia? Non c'è nessun discorso. Ma perché, che dovrebbe dire, scusa? La Grosciani è un'icona frusona ora, lo sa? Vai David. Pronto? Chi parla? Professore, sono Parenzo, sono giorni che ti cerco. No, Parenzo, io non parlo con voi. Siete dei uomini. No, ma scusami, buffoni. Vabbè, continuate a fare i buffoni, io non appartengo ai tuoi. Ma complimenti, fai buffoni. Fermati un secondo, mi hai visto l'altro giorno, vi siamo visti, che io ero passeggiavo via Colla di Rienzo a Roma. Qual è? Ci siamo mandati a quel paese, ti ricordi? L'altro ho deciso, se ti secondo ti saluto, beh, io poi ho rispetto per te per molte cose particolari, cose che non ho per Cruciani ovviamente, che non lo disistimo, però basta, il discorso è finito ormai. Poi noi ti abbiamo chiamato alla radio, ti stiamo chiamando alla radio. Una persona che fa ridere, io non faccio una cosa diversa. Non ho capito perché ti sei arrabbiato con noi, non c'è nessun motivo per arrabbiarti. No, io faccio una cosa, una persona che io faccio un'altra attività, un'altra cosa, e quindi voi avete fatto quella cosa ieri. Anzi, se state bravi a farlo, dico che può dire che poi tutto sommato io ne vengo fuori bene, perché volevo dire a questo coglione del Papa che dice ma, che. Ma scusa, ma che stai dicendo? Scusa, siamo alla Zanzara. Ma sì, che l'avete portata bene, io ho detto a questo finto coglione del Papa. No, però scusa, Severino. Dimmi. Sono Cruciani, ciao. Dimmi, Cruciani, basta, io non ho rapporto, è vero. Ma però scusami un attimo, noi che cosa che ti abbiamo fatto? Spiegami. Concretamente, che ti abbiamo fatto? Quella ieri è uno scherzo, dai, Severi. Quello è uno scherzo. Ma l'altra volta avete messo una cosa che questi che avevano messo apposta contro di me. Manipolato. Ma non vedete, abbiamo manipolato nulla. Scusa, Severino, ma io sono d'accordo con te su quello che fai al 100%. Non ti salta all'occhio che una legge abrogata da una corte. C'è un ministro che addirittura non lo vuole far applicare e che mi mandano i carabinieri e addirittura lo voleva portare dentro quello ieri, capito? Quando io gli ho detto all'avvocato che volevano arrestare. Sì. Quando l'avvocato gli volevano arrestare. Ascolta, quando l'avvocato gli volevano arrestare, spiega. No, sai perché? Ma non sai perché? Perché mi devi dare la cartella clinica della paziente. Tu sai che il segreto professionale, se tu riveli il segreto professionale, c'è un'indagine e il carabinieri no, il segreto professionale va rivelato solo al giudice. No, ma guarda, tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, Severino, sul merito della questione della fecondazione assistita. Io e Parenzo siamo sulla tua posizione, no? Ovviamente non al 100%, ma era l'80%. Quella volta che sei stato in diretta con noi, che tu ti sei arrabbiato, noi abbiamo messo e intervenuto. Tu l'avete riferito, non si addò, ma è falsa. Ma l'hai detto tu che era falsa la notizia. Poi è intervenuto Adinolfi e hai fatto una battaglia con Adinolfi, punto. Ma noi che cosa c'entriamo? Ma è uno stronzo, lasciamo perdere. Ma un sacco di che? Ma perché uno stronzo? Scusami. No, non mi fa dire la parola. Ma scusa, ma perché è un sacco di me? È uno stronzo, perché un progressista come lui che si mette a dire le cose, cioè veramente ormai abbiamo cambiato qui, ormai sono cambiate le cose. Chi ha una posizione diventa quell'altro. Ah, i progressisti ormai sono diventati contro la fecondazione assistita. Ma comunque la presidente, la commissione, sì. Della camera per gli affari sociali, si chiama Donata Lenzi, ha detto che la Lorenzi è una demente. Basta. Ma adesso non ha detto, non ha detto proprio così. Dai, non ha detto così. Ha detto che è inadeguata, eccetera, eccetera. Ma tu al finto Papa, scusa, Severi, al finto Papa, tanto hai detto pure la colpa, non è della Lorenzi, eri quasi emozionato col finto Papa. Ma quella è una cosa fatta così, perché se fosse stato vero, però quello dove miravo io a smontare tutto lo costrutto, che la cricca Vaticana, perché io ho detto la cricca Vaticana. Non gliel'hai detto al Papa, però, la cricca Vaticana. No, gli ho detto il gruppo, la corte Vaticana, rileggilo. Il gruppo intorno lo so, a lei. Ho fatto io, scherzo, che non lo so. Intorno a lei, dico, il gruppo intorno a lei. Sì, intorno a lei i consiglieri. Ma perché un coglione? No, sono dei delinquenti. Cioè, qui viviamo in un momento dove l'omosessualità non è ammessa. È tutta una serie di civili che fa schifo. Cioè, io sono un paese in cui vomito, non ci sto più. Ormai me lo vorrei andare. Ma il Papa perché è un coglione? Scusa, spiegami. Ma dai, un coglione perché uno che si fa ancora le linee guida per la genetica e per la vita, si fa guida dei quattro balordi amici di Ruini, è uno che non capisce niente. Ma come balordi? Tu dici che non è, non c'ha le palle alla fine sto Papa, alla fine non c'ha le palle. Adesso voi la state registrando, no, mandatela pure questa mia. Sì, la stiamo mandando tutta, siamo in diretta infatti. Scusami professore, però ti volevo chiedere questo, professore, no, perché con grande calma. Il problema, ascolta, il problema è questo, ascoltami una cosa. Dimmi. Il problema è questo, di fronte a una situazione... No, io ti voglio dire una cosa. Aspetta, fammi sentire, di fronte a? A una situazione in cui ci sono migliaia di donne che hanno... di coppia vogliono un figlio. Sì. Un paese, un governo progressista o veloce, come dicono Renzi, eccetera, che vuole aiutare la gente. C'è una sentenza alla corte e non la voglio applicare. No, ma questo sono d'accordo con lei, al 100%, Severino, sono d'accordo su questo, ma non è che tutti la devono pensare come te, anche per me c'è una cricca Vaticana. No, su di me ci sono, si inventano notizie, storie per cercare di infangarmi. Sono 40 anni. Ma sta fecondazione l'hai fatto o no alla fine? Sì. Ma come l'ho fatta? Scusa, quando ieri ho detto io al finto Papa, di fronte al testimone, di fronte a due giornalisti che hanno chiamato la paziente, sì, e le pazienti con nome e cognome, sì, loro erano suo paziente, sono giornalisti e tengono il segreto. Ma il capitano dei NAS, quando voleva chiedermi il segreto professionale con la cartella grigia, ho detto: guardi, questo, lei fa questo, commette un reato inducendomi a commettere anche un reato a me, quindi fa un doppio reato dai 10. Ma dove stanno sti pazienti? In Puglia? Dove sono, mi sembra? In Puglia e in altri paesi, ma davvero vuoi fare il battesimo? Vuoi fare il battesimo? Per cui loro, cose cui mi sono arrabbiato, hanno detto che questo è un bluff, che non era vero. Per questo, infatti, querelerò tutti quelli che hanno detto. Vabbè, quereliamo, tanto che c'è. No, quereliamo perché tu mi dai del bugiardo. Sì. No, professore, scusami. No, Severino, fai intervenire Parenzo Antinori, comunque noi siamo dalla parte tua. Senti Parenzo un attimo, Non ti arrabbiare, 30 secondi, non ti arrabbiare però per quello che ti sto dicendo. Io penso che sia un dovere del Ministro della Salute, e tu non ti dovresti arrabbiare, dovresti aprire le porte dei tuoi laboratori e dire: prego signori NAS, venite a controllare che faccio tutte le cose bene e in regola. Tu dovresti essere il primo a chiamare gli amici dei NAS, gli amici NAS, venite a verificare. Io sono felice che la signora Lorenzin mandi carabinieri, non ti arrabbiare, calmati, Fammi finire. La conclusione delle indagini sul verbale c'è scritto che la clinica è risultata di altissimo livello, dove non c'è una picca di tipo tecnico, sanitario e di sicurezza. Ha detto. E allora perché rompi le balle alla Lorenzin? La Lorenzin per te, che cos'è la Lorenzin per te? La Lorenzin che cos'è? Ascolta, questa indagine circa la sanità e la sicurezza della mia clinica di Milano. E vabbè, d'accordo, poi? Però venire a dire, a chiedere i nomi di chi, se viene per esempio Parenza a fare la fecondazione, io non devo in nessun modo dire. Vai, va bene, sono d'accordo con te, d'accordo. Ma la Lorenzin che cos'è? Come la vogliono sapere se tu vai al bagno, se fai sesso, questa è una cosa che non può. Come la definisci la Lorenzin? È una inadeguata. Adesso sei portaborse del sistema. Io so pure di chi qui a Roma che portare i porti di qualche, anche se politico, che si è trovata a fare il ministro malgrado lei, senza nessuna competenza, con un'arroganza assoluta, e sente ogni tanto le sirene vaticane per fare le sirene vaticane fare mettere in mezzo le linee guida, ma le linee guida non possono impedire. Comunque era forte il finto, era forte il finto. Severino, perché l'ho detto? Sai perché ho detto questa storia? Non per promuovermi, perché io ho centinaia di persone che vanno all'est sono, e si vendono pure la macchina. Allora non è giusto spendere i soldi a questa gente. Vabbè, non fate, e sono anche d'accordo, però dimmi un attimo, il finto Papa era bello. Allora, vuoi sapere che una giornalista, non ho il nome, venuta da me, mi ha detto 10 giorni fa, io me ne vado in Spagna perché la Polonia non mi permette questo, e mi vendo la macchina. Dico, no, guarda che lo facciamo, la fecondazione eterologa la facciamo in Italia e la continueremo a fare, perché è una discussione. Una volta che la legge è stata abrogata. La cosa che mi fa la Lorenzi, che noi, se io volevo autopromuovere, tu sai che non mi devo promuovere. No, e tanti soldi ce l'hai. Senti, Severino, una cosa sola, ma il finto Papa era buono, era bravo, però. Diciamo. No, guarda, voglio dire, vi faccio i complimenti perché era molto capace, però io, la mia obiettivo era quello di non sembrare mangiapreti, perché non volevo sembrare mangiapreti, ma di far capire a questo Papa che viene manipolato continuamente, tant'è che gli hai dato del coglione, infatti. Secondo me, ma hanno detto che prende il caffè, quelli del podcast, con il solo petto da solo. Che fa? Io, si prende il caffè da solo, lui, la macchinetta, lo mette su. Perché? Perché c'ha paura? Quello che è successo a quell'altro che... Ah, paura che ammazza. Questo ha fatto un'altra fine, capito? Vabbè, ciao Severino, ti abbraccio, ciao, presto. Il Vaticano è pieno di pedofili, poi, ti ricordo. Ma è pieno di pedofili. Hai ragione lui. Quello che dovete dire a tutti, che la frequentazione in Italia, però, si può fare, non devono andare all'estero e spendere niente, questo è il punto. È pieno di pedofili, diciamolo, è pieno di pedofili il Vaticano non solo è pieno, ma ti rispondo di miliardi di soldi per i pedofili, quei danni che hanno provocato. Va bene, ciao, abbraccio, ci vediamo, ciao. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti vai, sei lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Dark sarcasm in the classroom. Abbiamo recuperato il professore. Ha detto che il Papa è un coglione, ma comunque vabbè, dai. Ma sì, poi ha detto che è tutto pieno di pedofili, delle cose pazzesche. Hey! Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, La Biancofiore, protagonista della presentazione del libro dove non è andato Berlusconi per colpa di Galan oppure di altro, vedremo. Voglio fare il magistrato, dice. Un po' vergogno, perché insomma non dovrei dirlo, una che non ho fatto e che non mi sono ancora laureata, ma giuro che lo farò, insomma mi mancano 4 esami e giurisprudenza, forse per fare il magistrato. Oggi ho una nipote di 25 anni che studia giurisprudenza e gli ho detto devi fare il magistrato, punto. Io non li ho mai combattuti i giudici, fondamentalmente. Berlusconi, il più giovane tra i giovani. Oggi Berlusconi è il più giovane fra i giovani, è paradossalmente anche più giovane umanamente di Matteo Renzi, perché lui freme. Perché dico che è giovane? Perché come noi giovani, ancora noi quarantenni, ma anche quelli più piccoli, ragazzi che sono qua, hanno voglia, bolle in pentola, è come una pentola di fagioli. Lui ha voglia di dare una mano a cambiare questo paese, lui ha voglia ancora di cambiarlo questo paese, ci crede ancora ciecamente. Ho conosciuto Berlusconi a 6 anni. L'incontro con Berlusconi a me avviene sostanzialmente a 6 anni, quando capisco che questo signore col sorrisone simpatico e in smoking che vedevo in televisione era quello che aveva fondato le prime televisioni commerciali e quindi aveva dato vita a un sistema di plurinformazione nazionale. E da lì, dal fatto che lui mi ha portato i cartoni animati, che per me erano un grande sfogatoio come per tutta la mia generazione, lì ho imparato a seguire questo personaggio che qualunque cosa facesse era seguito da un gran baccano. Fino al cagnolino, diciamo, quello per un altro uso, va bene. Raffaele da Roma, Andrea da Caserta, Luca da Prata, Antonio da Rovigo, Adriano da Roma e altri ancora. Raffaele non c'è, ovviamente. Andrea da Caserta, pronto? Dimmi, pronto, Andrea, dimmi. Pronto, Cruciani, buonasera. Che fai, il camionista? Che fai, il camionista? Sì, siamo al top con i camionisti, siamo al top, amici miei. Lo so, siamo al top, al top, amici ragazzi. Camionisti, venite a noi che Andrea ci racconta, Cucia, una storia favolosa. Dimmi. Cucia, ma dimmi una cosa, no, ma com'è possibile? Cosa? Che noi dobbiamo sopportare, no, di sentire un parente che dice che, in poche parole, i gay non importunano nessuno, che stanno per i fatti. Ma questo lo dico pure io, questo lo dico pure io. No, sta calmo, Cruciano. Prima di dire questo, io ti prenderei e ti porterei con me. Hai capito? Ti no, porta Parenzo con te. Ma io guarda che. Un bel giretto nei parchetti. Sai che ci dovremmo inventare, Parenzo? Parenzo. Ti dico una cosa. Sì. Lo sai che ci dovremmo. Lo sai che ci dovremmo inventare? Una. Che ci sono. No, ci dovremmo inventare una spell che sei uscito come al solito, perché hai da fare qualcosa adesso. Non sono uscito. Sono un attimo ai servizi. No, ma tira la catenella allora. La catenella non la posso tirare. Tira la catenella del cesso, fammi non sentire. Dammi la prova che sei ai servizi. Dammi la prova che sei ai servizi. Sono ai servizi, sono in bagno. Ma che è la Gestapo? Sono in bagno. Ma tira la catenella del cesso così mi dai la prova che sei ai servizi. Tirala. Guarda questo che passa con rosso. Pronto. Dimmi, tira la catenella del cesso. Non posso tirarla adesso. Non sei in bagno, sei uscito. Sei uscito perché dovevi fare qualcosa, me l'hanno riferito. Ma che ora finisce la zanzara? Ma sono cazzi nostri, ancora finisce la zanzara. Finisce alle 8:30. Ma vattene, vai. Andrea, dai, forza, Andrea, dimmi. Lucia, ma com'è possibile? Insomma, quelli allora. È il solito, guarda, è veramente incredibile. Cioè, veramente ci vorrebbe qualcuno con la frusta. Ci vorrebbe qualcuno con la frusta. Sì. Come per i gay, che quell'associazione anti-masturbation, che lo lega. Che lo lega. Alle 8:30, ma che 8:30? Ma che cavolo dici? Non abbiamo mai chiuso alle 8:30, finiscila. Andrea, dimmi. Sono orribili, hai capito? Che sono orribili. C'era una famiglia di olandesi, è messa le mani nei capelli. Ma non ho capito, che è successo? Riassumi bene. Parole. Allora, dietro un cespuglio, dietro al parcheggio, un parcheggio che stava. Ma dove? Puntualizziamo, che parcheggio è? Che allora, parcheggio Valdarno. Parcheggio bene, Valdarno, parcheggio bene. Di Valdarno. Allora? Allora, due sono arrivati e si sono messi a scombinarsi uno con l'altro dietro al cespuglio. E la famiglia ha fatto finta di non vedere. Io sono là, ho visto tutto, Ma non ho capito che. Si scombinavano, ma di brutto, No, ma non ho capito. Allora, c'erano due gay. Tipo, ma che roba è? Beh, questo è un racconto di Andrea da Caserta, camionista. Ma quale racconto? È un racconto di vita, un racconto di quello che accade nelle autostrade italiane. Questa qua è la verità. No, la però scusami, Andrea, scusa un attimo, tu stai raccontando però un'altra cosa, non di un omosessuale che con la macchina viene ad importunare un camionista. Aspetta un po', aspetta. Poi è arrivato consecutivamente a questi qua, è arrivato un altro. Consecutivamente, sì, certo. Si è messo davanti la cabina, si è abbassato i pantaloni, ma... e si è piccato un rito nel culo. No, però aspetta, aspetta, mio amico mio. Ma perché devi dire? Che ti devo dire io? Mica l'ho chiamato io apposta, ha chiamato lui. Hai capito? No, non ho capito. Digli a Parenzo che dice che i gay non importano a nessuno. Che lui mi sa che vuole difendere qualcosa di suo. No, però Andrea, stai calmo. Perché i gay importano il cazzo. A chi? Rompono il cazzo. A chi? A tutti quelli che gli vengono a dire, perché c'hanno qualcosa che non va. No, qualcosa però... che non va, i gay ce l'hanno. No, però scusami, Andrea, io non ho capito, né tu hai descritto due scene confuse. Allora, abbiamo già detto dalla scena quella dietro le fratte e quella sul campo. E mi sono fermato. Sì. Di consecutivamente ci stavano due macchine che si guardavano, io non ho visto che si guardavano. Ma le macchine che c'entrano con i cosi, che c'entrano con i camionisti? Ti rompono il cazzo, tu nel parcheggio non ci puoi entrare più, perché non si mettono col culo, che si fanno vedere il culo. E tu fai un'indagine in mezzo a noi e vedi che ti diranno tutti la stessa cosa, ma sono tanti, Vabbè. Già, tu non puoi immaginare quando le sono, immaginare. Poi? No, tra le altre cose, gli ho tirato pure la bottiglia d'acqua, perché quella poi non se ne andava. Ah, non se ne andava, ma che ti faceva a te, non ho capito. Niente, niente, si è messo qualcuno di fuori davanti alla cabina e insomma si ficcava una volta, si ficcava. Vabbè, abbiamo capito, abbiamo capito, quello abbiamo capito. Cioè ti ha importunato, ti ha importunato, ho capito. Ma io te lo volevo far vedere, una bella macchina, bella macchina. Ma una volta ci facciamo un giro, ci facciamo un giro e registriamo tutto, facciamo una bella diretta. Ma non registriamo, no, ma questo ci deve fare un'inchiesta, tu ci deve fare un'inchiesta, guarda, rimarrai sconvolto. A chi dice che i gay non rompono il cazzo e che è gente così? Allora, per me non è così. C'hanno un problema in testa, ma proprio grave. Ma che problema c'hanno? Ma quello è come. Ma no, ma che problema c'hanno? Ma perché tu ti metteresti in un parcheggio? Metti il caso, no? Ti metti pure se fossero, diciamo, tutti. Tu ti metteresti nel parcheggio a far vedere il culo. Ma che c'è? Se voglio fare. Se faccio il prostituto. Dai, se mandalo via. Ma quale prostituto? Crucio, quello mica lo fanno per soldi, quello lo fanno perché lo vogliono prendere a quel servizio, Crucio. Ho capito. Ciao Andrea, ti abbraccio, ciao, ciao carissimo. Ciao, un abbraccio. Ciao. Oh, c'avevo un frocio 20 minuti fa, l'ho detto alla signorina, passami subito Giuseppe che lo fermo, gli lampeggio e glielo passo. Beh, ogni tanto rispunta questa nostra mini inchiesta sulle autostrade italiane, cari amici della Zanzara, caro popolo della radio, connesso in questo momento con la Zanzara. Ritorna, come dire, a nostra insaputa, anche perché non è che l'abbiamo programmato, no? Ritorna a nostra insaputa questa mini inchiesta. Questa mini inchiesta. Cosa accade di nascosto sulle autostrade italiane? Certo, Parenzo, si può immaginare che milioni di persone sono in viaggio nelle strade delle vacanze. Sì, ma però non capisco perché devono scendere così nei particolari. Vabbè, ho capito, questo è un signore, un camionista, no, che ci vuole descrivere signore quello che accade. Perché che fai? Che c'hai contro? Perché? No, dico, un signore non parla così, però per carità. Adriano da Roma, Adriano. Sì, pronto? Dica Adriano. Sì, buonasera. No, io volevo, se Parenzo ha tempo, sì, se la mattina mi può accompagnare in ufficio e la sera mi viene a riprendere. Sì, dove abita lei? Sì, beh, a pagamento. Io, No, assolutamente no, Parenzo. Io abito dopo Latina e tutti i giorni vengo a Roma. Faccio 108 km andare e 108 a tornare. Bene, allora? Lavoro sulla Tiburtina. Di fronte al mio ufficio, in via Visso, può andare, sì, a controllare Parenzo quando ha voglia, c'è un bel centro accoglienza per Rom. Sì. Centro accoglienza per Rom, che vuol dire centro accoglienza per Rom? Comunque, centro accoglienza per Rom, Best Rom House, voluto dal nostro ben amato sindaco di Roma. Sì. Allora? Che costa 2.600.000 euro l'anno, sì, e lei ci passa tranquillamente, come capita a tutti noi, sì, colleghi e persone del genere, lei passa, i bambini ti tirano i sassi, i genitori li guardano in pari di sfida, ok? Sì. Cioè, a chi tirano allora, i sassi, sì ragazzini? No, è come se giocano a pallone, tu mentre passi con la macchina non hanno il pallone perché non, sì, ce l'hanno, e tirano i sassi, danno un calcio al sasso, il sasso dove va. Tu ci allora passi con la macchina, giustamente ti aspetti di prenderti una bella serciata, come mi è successo anche a me stasera, sì, e i Rom ti guardano e io dovrei fare come vorrebbe il Parenzo, fare le cooperative per aiutare i Rom, l'inserimento e tutto il resto. Con ah no, un momento, se lei ha notizie no, che dentro quel Parenzo, conto, mi dia del tu, non per mancanza di rispetto, perché sono un ragazzo, anche lei è giovane, forse sono poco più grande. Vabbè, ognuno dà del tuo o del lei. No, ma non è per una forma, è proprio per una praticità, ci mancherebbe altro. Non, vabbè, allora ti ringrazio, però se tu hai conoscenza, come hai detto adesso, di crimini e persone che fanno queste cose lì dentro, giustamente devi denunciare immediatamente, subito. Non ti pare che uno può difendere un'illegalità come quella di un campo, come quello dove vengono, dove le persone si comportano in questo modo? Ma chi è che sostiene questo? Nessuno ha mai sostenuto questa roba qua. No, però lui dice. Aspetta un attimo, Parenzo, io mi auguro che tu, insomma, la televisione fa vedere tutti i giorni o su internet, che okay, l'assedio dei Rom che stanno alle biglietterie dappertutto. Sì, guarda, io oggi abbiamo noi sentito svariate volte in diretta da voi commenti, ok, poi giustamente Cruciani la vede come me, mettiamola così, sotto questo punto di vista, per la gestione dei Rom e tutto il resto. Non è possibile però continuare così, perché io capisco, tu dici facciamo la denuncia ai carabinieri, ok? No, allora, ma guarda che ho, avete sentito quello che ha detto questo tizio dei vigili urbani di Roma, cioè che esistono delle vere e proprie gang sì, che non sono le gang, sì, bang, è vero. Ma sono delle gang. Allora, vicino al mio ufficio c'è, cioè, il centro di immigrazione, che è quello. Questi che se ne fottono di lavorare, se ne fottono dell'integrazione, sì, di lavorare, io dai. Io devo lavorare lì con la mia macchina, che la lascio 8, 9, 10 ore in base a quanto tempo sto lì. Non posso sempre venire col treno, perché purtroppo magari alcune volte non posso fare casa, certo, lavoro casa, perché mi converrebbe anche a livello di stress e tutto il resto. Dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani 18:30. Beh, non sei contento? Ciao. No,